Radio 24 Reportage. Fratelli di Box. L'Italia unita intorno a un ring. Di Dario Ricci. Box a Milano. Ines. Olimpia Cinzano. Sangue dal sopracciglio. Lampo fotografo abbaglio. Milano, Piazza Udine, palestra dei Dolce Gabbana Thunder, la nuova squadra di pugilato semiprofessionistico. E poi giù al sud, 752 km più in giù, Marcianise, 41.000 abitanti. C'è un filo rosso che lega la metropoli del profondo nord e un piccolo centro della provincia casertana. Un legame fatto di box, guantoni, ring, sudore, sacrificio. I Thunder hanno fatto migrare al nord due grandi campioni del pugilato campano e italiano, il peso massimo Clemente Russo e il leggero Domenico Mirko Valentino, coi loro titoli mondiali, cui Russo aggiunge l'argento olimpico di Pechino 2008. Nord e sud cuciti insieme attorno al ring, di questi tempi non è poco, come ci spiega Francesco Damiani, CT azzurro e direttore tecnico dei Thunder. Se noi andiamo a riscoprire i campioni olimpici e i grandi campioni del passato, sono quasi tutti del nord o centro. Sud ha comunque una buona scuola, è sempre stata una delle migliori, cioè che ha sfornato parecchi elementi. Diciamo che Marcianise attualmente ha tre campioni, due campioni e uno lì di Casoria che è molto vicino, quindi che hanno conquistato campionati del mondo e olimpiadi, quindi questo non fa altro che portarli su in cima al tetto, come si dice, del mondo, dei valori, ecco. Però diciamo che la Campania ha una grande massa, ma anche il nord non sta male. Ricordiamoci che il campione olimpico è Cambarelle Roberto, che è di Milano, di Cinisello Balsamo. Hai fatto un bel accostamento, il sud che porta al nord qualche cosa di positivo, e questo mi sembra una grande esperienza. Ma da dove nasce la grande tradizione pugilistica di Marcianise? Ecco gli obiettivi del nemico nelle nostre città. Neppure il Palazzo Reale, così facilmente identificabile nella sua mole solenne, è stato risparmiato. La torre del maschio Angioino porta fieramente la sua ferita. Insieme ai bombardamenti e alla libertà, i Marines americani portarono al sud anche la box. Bastava qualche sigaretta e un po' di cioccolata per convincere i giovanotti di Marcianise e provincia a fare i guanti, giusto per tenersi in allenamento. Così la nobile arte mise radici in quello che oggi è il cuore della box italiana. Ancora Damiani. Ha anche dei grandi insegnanti, che sono Domenico Brillantino, che è un insegnante di vecchia data, ha quasi 65 anni, ha già tirato fuori campionissimi. C'è Munno, che è dell'altra palestra rivale, medaglie d'oro, che ha tirato fuori Domenico Valentino. Insomma, attualmente si può dire il centro del pugilato in Italia. E poi ring, corde e guantoni diventano presto scuola di vita. Io ti dico un aneddoto. La palestra di Marcianise, di Brillantino, l'Excelsior Box, che ha sfornato campioni, io ne cito uno dei miei tempi, che è Angelo Musone, c'è questa diceria, questo detto, che se tu non vai in palestra Marcianise non sei uomo. Cioè se tu non passi per la palestra di Brillantino l'Eccelsior non sei uomo. Quindi tutti ci passano, tutti i ragazzini di 9, 10, 12, 13 anni passano per la palestra di Marcianise. Provano, fanno, è per quello che ha questo grande incremento, cioè lui può contare di questi ragazzi giovani. E io te ne elencherei una lista enorme di talenti che sono passati, hanno fatto, poi hanno smesso, capito? Perché quella zona lì purtroppo non è che tutti possono solo vivere col pugilato. Quindi questa è una regola di Marcianise. Per sublimare scuola e tradizione, ora manca solo quell'oro olimpico già sfiorato da Russo nel 2008 e da Angelo Musone a Los Angeles 84. Damiani spera arrivi a Londra 2012. Sì, Angelo Musone è un grande, adesso attualmente è consigliere federale, quindi è un ragazzo che è rimasto sempre nell'ambiente del pugilato. Grande persona, buono, io ti ripeto, con quegli anni lì con loro c'era anche un povero Todisco che morde, che è stato medaglia d'argento a Los Angeles. Grandi, grandi personaggi, grandi uomini, umili, grandi lavoratori nel senso di palestra. Così. Io l'unica cosa che ho detto adesso al maestro Brillantino, che dopo Angelo Musone, 1984, dopo 24 anni, Clemente Russo, medaglia d'argento, io spero che nel prossimo futuro tiri fuori l'oro, perché bronzo, argento, manca l'oro. Gli ho detto. Speriamo che da Marcianise salti fuori un oro olimpico, che sarebbe proprio la giusta conclusione di questo grande personaggio del pugilato italiano. Una parabola descritta anche da Roberto Saviano, grande appassionato di pugilato, in un celebre articolo, Tatanka scatenato, dedicato proprio a Clemente Russo, soprannominato così dal nome indiano del bisonte, citato nel film Balla coi lupi. Perché a Marcianise e dintorni, racconta Russo, passano sul ring vite e storie di riscatto. Beh, mi sa che forse abbiamo terreno fertile al pugilato, non solo l'immondizia, ecco, come ci infangono televisivamente, perché ci sono tante parti belle di Marcianise. C'è da dire che è una piccola cittadina di 41.000 abitanti con ben tre società di pugilato, dove queste tre società praticano, fanno praticare questo sport totalmente gratis. Quindi ecco, un bambino anche, specie nel mio caso quando ero piccolo, anche per un po' di difficoltà economica, ma non per difficoltà economica, anche io perché cambiamo sempre idea dal calcio al ciclismo, dalla pallavolo al pugilato, quindi mia mamma non mi voleva dare più i soldini per andarmi a iscrivere da qualche parte, sono andato al pugilato per dimagrire. Era del tutto gratis e poi mi sono appassionato e ci sono rimasto. È un po' la storia di tutti i ragazzi di Marcianise che praticano questo sport, si avvicinano al pugilato un po' per gli amici, un po' per i parenti, i familiari e anche perché sono palestre gratis e si fa veramente tutto per il sociale. La palestra o la strada, l'attrazione fatale della camorra o il sudore e il sacrificio sul ring. In pochi altri posti, come a Marcianise, le scelte possono essere tanto radicali e diverse. Mirko Valentino sul ring ci è salito quasi per caso. L'ho scoperta grazie a mio fratello, che in palestra è stato portato da amici. Io sono stato portato da mio fratello, ho parecchi amici che ho portato anch'io. Cioè, alla fine non sono diventati campioni, però comunque anche io ho portato parecchi amici in palestra, che poi al di là che hanno proseguito o meno, comunque tutti i ragazzi di Marcianise hanno frequentato palestre di pugilato. Box a Milano, nebbia sudava il Naviglio, freddo in stazione centrale. Da Marcianise a Milano e il ritorno. L'Italia che ogni giorno fa pugni con se stessa, ma che stavolta a suon di pugni è unita e vicina. Clemente Russo ci mette un attimo a mandare KO un secolo e mezzo di luoghi comuni. Poi io veramente lotto, tiro pugni e lo faccio veramente per me, per la mia famiglia e per l'Italia intera, perché il mio successo sono il successo anche delle altre persone. Però basta il napoletano, il sudista, il terrone, basta, perché se devo pensare che noi napoletani siamo i terroni, allora tu bresciano, tu milanese sei il terrone dell'Austria, non è quello il discorso. Siamo una sola nazione, vogliamoci bene e mettiamo fine a queste polemiche. In comune la nobile arte, certo, ma anche tante altre piccole cose che aiutano a sentirsi più vicino a casa, più vicino agli altri. È una bella cosa, oltre a questo trasferiamo anche la lingua, il dialetto napoletano, visto che come ben vede è una squadra mista di europei e quindi alcuni di loro già parlano qualche parola napoletana, quindi noi oltre a pugilato trasferiamo anche ben altro, quindi siamo felici anche per questo. Colpo di gong, inizia l'ultimo round. E allora, Mirko Valentino, toglici una curiosità. Del Saviano scrittore conosciamo ormai tutto. Ma come pugile, com'è? Allora, il consiglio che gli ho dato è di smettere. No, scherzo. No, basta... Guarda, il pugilato è anche divertimento. Basta che uno si diverte in quello che fa, è sempre bello. Lui si è divertito a fare pugilato, spero che si diverta ancora, quindi in bocca al lupo a Roberto Saviano. Io sono affezionato ai brocchi. I brocchi li ho avuto nel passato, perché anche loro hanno il coraggio di andare sul ring, di entrare nel ring.